Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. In questo momento non abbiamo evidenze per dire che il virus circoli nell'aria. Abbiamo evidenze che la trasmissione è per droppe e per contatto, abbiamo anche evidenze che in determinati contesti dove è più facile l'aerosolizzazione legata a procedure o a sintomi particolari, questo possa avere anche una diffusione per aerosol. Però era nota, viene confermata in alcuni contesti. Questo è il dato che oggi noi abbiamo. A dire questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è stato oggi il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro. Perché lo ha detto? Perché è circolata una notizia, in realtà veniva questa informazione dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha creato una certa preoccupazione, una certa tensione. Che cosa ha detto oggi l'OMS? Ha detto che potrebbe rivedere le sue raccomandazioni sull'uso delle mascherine alla luce dei risultati di un nuovo studio del MIT, secondo cui le goccioline emesse con un colpo di tosse o uno starnuto possono viaggiare nell'aria per distanze ben più ampie di quanto si pensi, e secondo quanto scrive l'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, il coronavirus viaggerebbe nell'aria anche con il semplice respiro, anche solo parlando o respirando, e sarebbe stato trovato in campioni d'aria raccolti a oltre 1,8 metri di distanza tra due pazienti. Quindi subito il presidente appunto dell'ISS, Istituto Superiore di Sanità, ci ha tenuto a tranquillizzare e a dire no, in realtà per il momento non ci sono delle prove scientifiche di questo, però assistiamo un po' tutti naturalmente un pochino a ordine e controordine sulla questione dell'uso delle mascherine, e su questo per il momento evidentemente un pochino si naviga a vista, anche se avete sentito poi qui Effetto Notte una scienziata, presidente dell'associazione dei medici di malattie immunologiche, nei giorni scorsi, Susanna Esposito, che ha detto che in realtà ritiene, anche se prima pensava diversamente, che le mascherine sarebbero da mettere sempre, ogni volta che si può, quando si esce, soprattutto a fare la spesa, ma non solo. Il problema è per ora ancora l'approvvigionamento. Ne parleremo di questo, e poi ci occuperemo anche dei dati in particolare della Lombardia e del fatto che probabilmente la Lombardia da domani partirà a sua volta con tamponi a tappeto e anche con le analisi sierologiche, cioè quelle del sangue per capire chi ha gli anticorpi e tutto quello che ne consegue. Ci occuperemo anche dei medici, ne sono morti ancora altri oggi, e poi c'è una proposta bipartisan, forse ve l'avevo già accennato nei giorni scorsi, che cerca di tutelare i medici da possibile cause, se non in caso di gravissimo dolo da parte loro, comunque in questo stato d'emergenza. Molte altre notizie, aggiornamenti, approfondimenti con gli ospiti, lo sapete, qui è sempre ricchissima la puntata ogni giorno di Effetto Notte, e d'altronde sono qui per voi, sapete che noi non ce ne andiamo. Quindi pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, le vostre riflessioni, sempre lì per voi, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure SMS e WhatsApp, li potete sempre inviare al solito numero che è 349 238 6666, 349 238 6666. Durante il giorno, per alcune anticipazioni, c'è il Twitter Roby con la Y, linetta bassa, Giordano, oppure c'è l'Effetto Notte, il Twitter della diretta. Direi di partire subito con la sintesi della giornata. Il coronavirus in Italia, secondo i dati aggiornati della Protezione Civile, sono complessivamente 85.388 i malati di coronavirus nel nostro paese, le vittime 14.681 e sono 19.758 le persone guarite. Dati cautamente positivi per la Lombardia, Effetto Notte l'assessore Gallera. Le restrizioni restano confermate fino al 13 di aprile, dice Borrelli, capo della Protezione Civile, precisando che erano state equivocate le sue parole. Il monito dell'OMS è prematuro, lo stop alle restrizioni potrebbe far tornare il virus. E poi dice sempre l'OMS, abbiamo ancora molta strada da percorrere in questa lotta, e lancia un'enorme campagna per i test sugli anticorpi. E la scienziata Ilaria Capua sottolinea, il Covid-19 non va via con l'estate, ma ne usciremo, anche se ne usciremo diversi. I casi nel mondo, superato il milione di contagi, in Gran Bretagna nuovo picco, la Spagna supera l'Italia per contagi, Stati Uniti verso i tutti a casa per l'intero paese, e sono oltre 40.000 i morti per il coronavirus in Europa. Le misure per affrontare l'impatto economico, l'Olanda ribadisce il no agli eurobond, sì alla solidarietà, Di Maio rilancia e dice l'importante è trovare soluzioni alla crisi. Le sanzioni in Italia, impennata di multe per le violazioni delle limitazioni, in due giorni quasi 15.000. Partiamo Partiamo quindi dai dati sul coronavirus in Italia. Sono complessivamente 85.388 i malati di Covid-19 nel nostro paese, con un incremento rispetto a ieri di 2.339. Il numero complessivo dei contagiati in Italia, comprese le vittime e i guariti, è di 119.827. Il dato, come sempre, è stato fornito oggi nella conferenza stampa della Protezione Civile. Più in specifico, sono 14.681 i morti dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 766. Sono invece 19.758 le persone guarite, 1.480 in più di ieri. Il dato è stato reso noto sempre appunto dalla Protezione Civile. E il picco però non si è ancora esaurito, lo ha detto il direttore della terapia intensiva del Gemelli e membro del comitato tecnico scientifico Massimo Antonelli, oggi in conferenza stampa della Protezione Civile, sottolineando che la tendenza in calo a cui stiamo assistendo è il frutto di quello che è accaduto nelle ultime 3 settimane. Ancora il picco non si è esaurito e di conseguenza quello che noi abbiamo visto, anche se ora c'è una tendenza in calo, è frutto di ciò che è stato nelle precedenti 3 settimane. Quindi darle una risposta e vedere a questi casi come nuovi casi e non quelli che sì, nella evoluzione della malattia era più o meno previsto che arrivassero, forse non è esattamente corretto inquadrarli in quella maniera, ecco. E poi ancora il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che ha parlato dell'uso delle mascherine. Non sappiamo quella che sarà l'evoluzione, se sarà necessario o no indossare le mascherine. Oggi non è necessario per chi riesce a tenere le distanze e riesce ovviamente a rispettare le indicazioni che sono state date. Vedete, appunto, oggi l'OMS diceva, ma secondo questi studi addirittura col respiro potrebbe essere trasmesso, quindi forse è meglio mettere le mascherine, e un'agenzia di pochi istanti fa, dove di nuovo l'OMS dice, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non si sbilancia sull'uso delle mascherine per contenere la diffusione del coronavirus nella vita di tutti i giorni. Rispondendo a una domanda sull'argomento nella consueta conferenza stampa, il dottor Mike Ryan ha spiegato dell'OMS che ci sono delle circostanze nelle quali l'uso di mascherine anche fatte in casa di tessuto all'interno di una comunità può aiutare nella risposta complessiva a questa malattia. Tuttavia, ha sottolineato, indossare una mascherina non protegge necessariamente la persona che la porta, ma piuttosto serve a limitare la capacità di quella persona di infettare gli altri. Questo l'abbiamo sentito già molte volte e dice a questo punto gli stati decidano in autonomia. E vabbè. Sempre Borrelli, capo della Protezione Civile, poi oggi è tornato sulle sue parole che avevano creato un po' di tensione, un po' di polemica in un'intervista, detta in un'intervista in cui avrebbe affermato che il 1° maggio saremo ancora tutti a casa. Per quanto riguarda la cosiddetta fase 2, al momento c'è una sola data, che è quella del 13 aprile. Così come ha annunciato il Presidente del Consiglio dei Ministri, voglio anche ricordare che purtroppo oggi alcune mie parole sono state equivocate, perché io avevo fatto un ragionamento e un ragionamento nel quale avevo detto chiaramente che le misure sarebbero state determinate in relazione all'evoluzione della situazione in atto e che quello che stiamo fronteggiando è un virus nuovo e per questo motivo è difficile fare previsioni ed abbassare la guardia. Per quanto riguarda la regione più colpita, cioè la Lombardia, i numeri sono ancora molto pesanti, ma l'assessore al welfare Gallera ha parlato di dati che cominciano a essere confortanti e ce lo spiegherà poi il perché ospite qui Effetto Notte tra poco. Si intensificano intanto i controlli in vista della Pasqua per assicurare il rispetto delle restrizioni contro la diffusione del contagio. Negli ultimi giorni c'è stato un boom di sanzioni per persone uscite senza un vero motivo e si parla già della possibile proroga delle restrizioni a dopo il ponte del 1° maggio. Insomma, avete sentito cosa ha detto Borrelli nel corso di Effetto Notte, ci sarà modo di fare il punto su queste sanzioni e sulle violazioni. Il coronavirus nel mondo adesso, sono oltre 40.000 i morti per Covid-19 in Europa e quanto emerge da un calcolo dell'agenzia France Press, nuovo picco in Gran Bretagna, la Spagna verso la proroga delle chiusure, per gli Stati Uniti si lavora a una chiusura totale. Sono gli Stati Uniti il paese al mondo con più contagiati da coronavirus, almeno 245.000 persone, mentre le vittime sono già più di 6.000. Nelle ultime 24 ore nello stato di New York sono morte 526 persone, l'aumento giornaliero finora più alto, lo ha riferito nel suo briefing quotidiano il governatore Andrew Cuomo. Da questa parte dell'oceano invece la Spagna è uno dei paesi più colpiti, con 117.000 casi, la Germania ne conta oltre 84.000, tuttavia un numero di decessi relativamente basso, circa 1.100 morti. In Cina, dove i contagi ufficiali sono stati 82.000, secondo molti analisti, i numeri in realtà sarebbero più alti e ora cresce la paura di una ripresa dei contagi. Ai residenti di Wuhan, le autorità locali chiedono di stare a casa, se non per necessità. In Africa i casi superano quota 7.000, ma si prevede che i numeri aumentino nelle prossime settimane. Prima morte in Libia, dove i casi ufficiali sono 11. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi il monito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: il prematuro stop alle restrizioni può far tornare il virus. Abbiamo ancora molta strada da percorrere in questa lotta, dice l'OMS, lancia un'enorme campagna per i test sugli anticorpi. E in serata la scienziata Ilaria Capua, che è la virologa che dirige il One Health Center of Excellence all'Università della Florida, e in una diretta Instagram col sindaco di Firenze Nardella ha detto: ci sono zero possibilità che il coronavirus scompaia con l'estate. Questo è un fenomeno di portata epocale, ha detto Capua. Siamo di fronte a un'emergenza sanitaria, ma non è un tunnel senza fine. Ne usciremo, anche se saremo tutti diversi, ha detto Ilaria Capua. Alcuni studi pubblicati sul New England Medical Journal evidenzierebbero che il coronavirus può viaggiare attraverso l'aerosol e quindi restare nell'aria molto più a lungo rispetto alle microscopiche goccioline, il cosiddetto droplet, espulse dalla bocca quando si tossisce, si starnutisce o si parla. Per questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe rivedere, come vi dicevo, le raccomandazioni sull'uso delle mascherine, ma come avete sentito, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ha detto che per il momento questa cosa non è scientificamente comprovata. E sul tema delle mascherine facciamo il punto sulla produzione italiana. Parte finalmente la produzione made in Italy di mascherine certificate, fondamentale per non dipendere dalle incerte forniture dall'estero. Oggi l'Istituto Superiore di Sanità ha autorizzato la prima impresa, la Fippi di Ro Milano, leader nella produzione di pannolini, a distribuire alla regione Lombardia le sue nuove mascherine. Il decreto Cura Italia consente di fare a meno della certificazione CE, ma gli standard prestazionali devono essere mantenuti. La maggior parte delle imprese o laboratori artigiani non ha superato i test, ma 50 hanno già avuto l'ok dell'ISS per la produzione e la prima, la Fippi appunto, anche quello a vendere. Il presidente dell'istituto, Silvio Brusaferro. In questo momento 50 aziende italiane sono autorizzate a produrre. Oggi la prima può anche commercializzare. Noi, nel momento in cui abbiamo le prove che il filtraggio è quello raccomandato, immediatamente diamo questa autorizzazione. 14 imprese hanno inoltre già avuto i finanziamenti del commissario Arcuri per la produzione e l'obiettivo è arrivare in qualche settimana a 1,5 milioni di mascherine al giorno, circa la metà del fabbisogno. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sono morti altri 4 medici oggi per coronavirus, in totale sono 77, ne parleremo con il vicepresidente della Federazione dei Medici Italiani. Adesso il fronte economico, Palazzo Chigi al lavoro per il decreto di aprile, in primo piano la liquidità per le imprese e i tempi di ritorno a scuola. Il governo lavora al decreto aprile che dovrebbe essere varato nel fine settimana. Priorità è la liquidità alle imprese per misure di almeno 30 miliardi con prestiti bancari garantiti dallo Stato, ma non solo. Pressing della maggioranza per ridurre l'IVA sulle mascherine e gli altri dispositivi di protezione individuale, una misura del valore di 400 milioni per l'IVA agevolata al 5%. Esecutivo impegnato anche per il reddito d'emergenza. Secondo l'allarme della ministra del lavoro Nunzia Catalfo, c'è una parte di cittadini che in questo momento non ha alcun sostegno, circa 3 milioni. Stiamo valutando, dice Catalfo, la platea e l'impatto. La misura si aggira attorno ai 3 miliardi di euro. Il pacchetto complessivo per gli ammortizzatori sociali sarà intorno ai 15 miliardi. Infine il capitolo della scuola, maturità a distanza con sola prova orale se gli studenti non torneranno in classe entro il 18 maggio. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sul nodo degli aiuti economici l'Italia guarda l'Europa, lo sapete, mi interessano le soluzioni, dice il ministro Di Maio. Sul tema interviene anche la vicepresidente della Commissione Europea, Margrethe Vestager, che deplora la divisione tra nord e sud Europa sulle risposte alla crisi. Corrono le lancette verso un Eurogruppo di martedì che, come spesso accade in un'Europa divisa anche di fronte alle catastrofi, partorirà con ogni probabilità un compromesso meno ambizioso di quanto richiesto dai paesi mediterranei. L'ultima videoconferenza dei viceministri delle finanze ha nei fatti messo in coda tutte le opzioni possibili il varo di Corona Bond, lasciando sul piatto l'opzione primaria delle linee di credito del meccanismo europeo di stabilità, declinato in due versioni, una linea per il sostegno contro la crisi pandemica e uno strumento di finanziamento rapido. I finanziamenti coprirebbero il versante sanitario e quello della crisi economica, partendo da una base del 2% del PIL del paese o di complessivi 80 miliardi, a seconda dello strumento. E sì, rimarrebbe anche la condizionalità del rispetto delle regole di bilancio europee, sebbene diluita probabilmente nel tempo. Il faut qu'il y ait des décisions mardi prochain. Il ministro dell'economia francese Le Maire lancia intanto l'allarme: o l'Europa agisce di fronte alla pandemia o non si risolleverà più. Servono decisioni, non chiacchiere. Mentre l'ineffabile ministro delle finanze olandese Hoekstra ripete allo sfinimento il mantra del sì alla solidarietà ma no ai corona bond, e il vicepresidente della commissione Dombrovskis fiuta l'aria e svicola: ci sono altre opzioni oltre ai covid bond. Sullo sfondo resta l'appello del premier Conte: l'Europa deve mostrare più coraggio, serve uno European Recovery Bond. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi ci sono i più fragili, i pazienti malati di SLA che hanno dovuto rifiutare l'ingresso in casa del medico perché privo di mascherina, persone con gravi disabilità cognitive costrette alla quarantena con grandi difficoltà e soprattutto totalmente a carico delle famiglie. Sono le storie dei più fragili, storie di chi sta davvero combattendo per vivere, quelle raccontate nel reportage che andrà in onda domenica mattina alle 8.15, qui un anticipo. Se parliamo di coronavirus e disabilità, esiste una linea, spesso non tanto sottile, di isolamento e in qualche caso di abbandono. Nel grande mare di numeri tra vittime e positivi navigano migliaia di storie, ognuna con un proprio percorso. Storie di immensa fatica lasciata cadere sulle spalle delle persone con disabilità e delle loro famiglie. In un contesto di grave crisi hanno dovuto in molti casi rinunciare ad assistenza domiciliare e spesso a diradare cure mediche. Claudio Cresta, da circa 2 anni e mezzo, è malato di SLA a 60 anni. Per lui l'emergenza coronavirus ha significato isolamento totale dai primi casi accertati. Vivo questi giorni con l'ansia, l'angoscia che abbiamo un po' tutti. Naturalmente per chi ha una patologia come la mia, quest'ansia, questa angoscia vengono accresciuti dal fatto che c'è il rischio di sentirsi abbandonati e non più ovviamente considerati a fronte di quelli che sono i ben più ampi problemi del coronavirus. In questa storia che riguarda tutti, ma in particolare persone con più alta fragilità se esposte al virus, ci sono due grandi alleati: internet e il mondo delle associazioni e del volontariato, una rete che ha permesso in Italia di creare assistenza quotidiana a tutti coloro che avrebbero avuto difficoltà insormontabili. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una ricerca, per chiudere questa prima parte, chiusi tra le mura domestiche pensiamo di essere al riparo da smog e sostanze nocive, invece le nostre case sono scatole chiuse che intrappolano inquinanti insieme al calore. Quando usiamo spray, detergenti, profumi, camminiamo su moquette sintetica, fumiamo, respiriamo aria troppo calda, ci sovraccarichiamo con sostanze che si depositano nell'organismo provocando mal di testa, allergie e problemi respiratori. Secondo l'OMS, l'inquinamento domestico va a produrre il 60% dell'inquinamento da polveri sottili ed è il più importante fattore di rischio per la salute nel mondo, dice l'OMS. Anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche stima che le sostanze pericolose con cui veniamo in contatto quotidianamente sono oltre 150 e sono tutte potenzialmente tossiche, veri killer silenziosi. L'inquinamento indoor è circa 5 volte maggiore di quello esterno, pensate, e ci sono varie indicazioni da seguire: almeno 2-3 volte al giorno aprire le finestre per 5 minuti per ridurre la polvere spolverando con un panno umido, non pulire con detersivi troppo aggressivi e non farlo in presenza dei bambini. E poi la moquette non è da preferire, dove esiste è meglio utilizzare trattamenti a vapore, non fumare in casa, sarebbe meglio non fumare per niente, ridurre l'emissione di sostanze tossiche da apparecchi di riscaldamento e impianti di condizionamento e ventilatore. Insomma, fuori non si può andare, dentro ci sono questi rischi, vabbè, cerchiamo di prendere con filosofia. Per la Hit Parade di questa settimana, Gigaton è l'11° album, no, Gigaton dice, sì, Gigaton, è così si pronuncia, adesso, chiaro, dice Gigaton, l'11° album di Pearl Jam, debutta direttamente in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rivelazioni di Fimi GFK. L'album rappresenta il culmine dell'evoluzione stilistica della band di Seattle e anche a volte la mia stanchezza personale. Ci sentiamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci subito qui, Roberto Giordano con voi, come sempre, a raccontarvi a fine giornata quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero. Lo raccolgo, lo seleziono apposta per voi tutti i giorni, in modo che in questo appuntamento voi possiate sapere tutto quello che c'è da sapere, e diventa anche una trasmissione, se volete, anche antivirus, perché più lo conoscete, più vi informate con Effetto Notte, più lo evitate. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. C'è un ascoltatore che dice: buonasera, perché non si parla mai degli infermieri sanitari morti? In realtà c'è stata proprio qui ospite qualche puntata fa la presidente della Federazione delle Professioni Infermieristiche, con la quale avevamo parlato ampiamente del lavoro preziosissimo, imprescindibile, di infermiere e infermieri, del fatto che anche loro purtroppo si ammalano e muoiono e di quanto debba essere ulteriormente valorizzato il loro lavoro una volta che tutto questo finirà, e che è stato l'auspicio finale e forte che abbiamo espresso. E poi c'è un ascoltatore invece che dice che ci sono alcuni negozi della marca di cioccolato Venchi che stanno aprendo, dice, per quale motivo in questo momento. Allora, l'aggiornamento che c'è su questo è che Venchi riapre i battenti di alcuni dei propri negozi, solo quelli identificati dal codice Ateco, che non so, scusate l'ignoranza, cosa vuol dire, idoneo per proseguire, ecco questo è il codice, idoneo per proseguire l'attività come categorie alimentari per permettere l'acquisto di prodotti in vista della Pasqua, e poi c'è un elenco di diverse città. Ecco, questa è un po' la spiegazione. E adesso cominciamo ad approfondire i temi. Ho presente la generosità di chi si espone per la cura di questa pandemia e per garantire i servizi essenziali alla società. Quanti eroi di tutti i giorni, di tutte le ore. Anche il Papa le ha ricordati, non è la prima volta, medici, infermieri e personale sanitario più in generale. E sapete, appunto, parlavamo prima attraverso questo messaggio degli infermieri e delle infermiere, e torniamo a parlare anche dei medici, perché oggi altri 4 medici si aggiungono purtroppo a questa lunga lista di camici bianchi deceduti per l'epidemia di Covid-19. Ad oggi in totale sono 77 dall'inizio dell'epidemia. E allora ne voglio parlare con il vicepresidente della Federazione Italiana degli Ordini dei Medici Chirurgici e Odontoiatri, che è Giovanni Leoni. Buonasera, dottor Leoni. Buonasera a voi, buonasera a Radio 24. E bentornato, dottor Leoni. Quindi, insomma, continua purtroppo ad allungarsi, sì, questa lista. Si tratta per lo più, mi scusi Leoni, di medici di base, che sono quelli che appunto vengono a contatto con i pazienti che hanno bisogno di prescrizioni, di cure, anche se adesso si può fare anche molte cose online o telefonicamente, o più negli ospedali, nelle case di cura. Diciamo, solo ieri eravamo a 69, oggi siamo arrivati a 77. E ci sono anche 7 odontoiatri, ci sono i resti, sono medici ospedalieri, medici in attività, per la stragrande maggioranza, che hanno un'età media di 10 anni inferiore alla media dei pazienti morti per coronavirus. Quindi sono per lo più giovani? Più giovani? Sono più giovani perché sono in attività e sicuramente non hanno 2 o 3 patologie correlate come quelli che sono i pazienti tipici che muoiono purtroppo per questo tipo di patologia. Quindi sono stati esposti a una carica infettante estremamente importante. Per contatti ravvicinati, non dimentichiamo che noi vediamo una fotografia di quello che è successo circa un mese e mezzo fa, con tutta quanta la sua evoluzione. E naturalmente i presidi, e intendo in questo caso mascherine ad alto filtraggio, per quanto riguarda un contatto ravvicinato, cosa che è tipica quando devi visitare qualcuno, ascoltargli i polmoni, farlo tossire, quando sei chiamato per uno che semplicemente ha una febbre a caso, una tosse che non va bene, devi fare una diagnosi con i mezzi che hai. I mezzi, quelli dei medici in medicina in generale. E fino a prova contraria, questa probabilmente è stata l'evoluzione che ha colpito questa categoria di dottori che hanno fatto fino in fondo il loro dovere, non abbandonando mai i loro pazienti, mentre erano privi di quelli che sono i presidi più normali che si adoperano in caso di epidemie e anche ben noti per quanto riguarda i protocolli che derivano dall'infezione SARS 2002-2003, che esistevano comunque e su cui si poteva fare già un ragionamento qualche mese fa. Senta, dottor Leoni, le sembra che comunque, al di là delle ultime morti, anche probabilmente appunto dovute a aver contratto l'infezione già diverso tempo fa, le risulta che le cose stiano un po' cambiando anche per quanto riguarda i presidi di sicurezza? Ma i presidi, diciamo, ascoltavo, sono presidi anche molto specialistici, c'è anche una certa diatriba per quanto riguarda l'utilizzo tra quelle che sono indicazioni del protocollo cinese Covid 2019, tradotto anche in italiano, e quelli che sono i dettami dell'OMS, quindi ISS. E muoiono anche gli infermieri, sentivo prima la vostra trasmissione, sono morti 23 stamattina perché sono quelli anche a stretto contatto diretto. Non so come evolverà la situazione. Notavo oggi notizia dall'agenzia che c'è un emendamento che in studio a livello della regione dello Stato che è stato bocciato, perché alla fine la proposta di al Senato di un testo che dava un'estensione alla fornitura anche ai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti, è stato rinviato dalla Commissione perché non c'era il conto effettivamente della spesa che doveva essere impiegata. Sono ulteriori rallentamenti. Mentre la gente muore al fronte, io penso che sia d'obbligo che ci siano delle norme un po' più snelle per quanto riguarda la necessità di fornire presidi adeguati a chi è al fronte e continua a fare il suo dovere. Certo, lei dice in una situazione di emergenza così si può stare poco lì, diciamo, a dettagliare, a cavillare. Dottor Leoni, mi scusi, in positivo però c'è un'altra proposta che dovrebbe essere introdotta da parte, è bipartisan, quindi da parte di tutti i gruppi parlamentari, che dovrebbe essere introdotta nel decreto Cura Italia, una norma per difendere sia medici che infermieri in prima linea per combattere il rischio di cause. Il ministro Roberto Speranza, ministro della Salute, ha proposto di intervenire sul tema della responsabilità dei medici, starebbe spingendo per introdurre proprio come in forma di emendamento nel decreto Cura Italia questa proposta, e sul tema ci sono appunto proposte bipartisan, quindi da parte dei vari gruppi parlamentari, e in queste ore si sta cercando di fare una sintesi. Però già oggi il ministro della Giustizia Bonafede ha dato parere favorevole agli emendamenti che prevedono in questo momento di emergenza appunto che la responsabilità civile dei medici sia limitata solo al dolo e alla colpa grave, mentre la responsabilità penale solo alla colpa grave. Che ne pensi? Guardi, questo tipo di dispositivo è sotto analisi perché non è così semplice la variazione della norma esistente per quanto riguarda anche i criteri di costituzionalità di tutta questa normativa, perché naturalmente queste variazioni saranno sottoposte anche al vaglio della Corte Costituzionale. Intanto si potrebbe applicare già un'estensione di quello che è il tempo necessario per produrre la documentazione clinica, che è molto stringente come termini, entro 2 settimane, e in questo momento, quando ci sono delle problematiche di altro tipo, dover distogliere anche la mente dei medici a eventualmente fare anche le pratiche e le cartelle cliniche per difendersi in tribunale, mi pare che sarebbe già un gesto distensivo, perché ci sono delle normative molto strette, tutto sommato, date dalla legge preesistente, che è quella Gelli. Grazie dottor Giovanni Leoni, intanto buon lavoro e speriamo che si riesca a fermare questa lunga lista di medici che si ammalano, in particolare che muoiono, e così anche per gli infermieri. Grazie per il vostro lavoro, dottor Leoni. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie mille. E poi c'è un appello importante che viene dagli anestesisti, cioè quello di garantire le cure palliative, le cure antidolore ai malati di Covid-19, prevedendo urgentemente l'attivazione di protocolli appunto per la terapia del dolore e per l'inserimento della figura di palliativista nelle unità di crisi regionali e locali. A chiederlo è un documento siglato dalla Società Italiana Cure Palliative, dalla Società Italiana di Analgesia, Anestesia e Rianimazione e dalla Federazione Cure Palliative. E su questo è in collegamento Italo Penco, che è presidente della Società Italiana Cure Palliative. Buonasera dottor Penco. Buonasera a tutti. Quindi anche questo è un aspetto molto importante, no, che voi avete voluto mettere in evidenza. Beh sì, diciamo che gli aspetti in questo momento così diciamo di crisi sono due: uno sicuramente salvare la vita alla persona, e il secondo è cercare di non farle soffrire nel momento in cui non hanno possibilità di guarigione. E noi sentiamo tutti, vedendo le immagini, sentiamo anche le news che ogni giorno appaiono davanti ai nostri occhi, e vediamo appunto che ci sono persone, moltissime persone, che purtroppo muoiono fuori dalla terapia intensiva o perché non hanno possibilità possibilità di entrarci, abbiamo visto purtroppo è accaduto, oppure perché non è appropriato metterli in terapia intensiva e quindi le possibilità terapeutiche decadono. Questi malati purtroppo muoiono con una sintomatologia che crea veramente tanta sofferenza. L'insufficienza respiratoria e la dispnea sono quei sintomi forse peggiori da sopportare, no? La mancanza di fiato, la sensazione di affogare. E quindi questo tipo di sintomatologia deve essere assolutamente sedato e trattato da persone che sono competenti, che sanno trattare questi sintomi. Le cure palliative sono nate proprio per questo. Questa crisi che stiamo vivendo è nata proprio a 10 anni dalla legge 38, una legge che doveva garantire, no, la sofferenza, di evitare la sofferenza umana dei malati, quindi dare una risposta non soltanto alla sintomatologia clinica ma anche a tutti gli aspetti psicologici, spirituali. Oggi in questa emergenza si è stravolto un po' tutto, però l'attenzione alle persone che appunto non hanno neanche, direi, è il caso di dire, il fiato per chiedere aiuto. Ecco, per queste persone è fondamentale un approccio specialistico. Ecco perché l'appello è proprio quello di cercare di impegnarsi per creare dei percorsi, dei protocolli di cura affinché possano essere condivisi anche con altri medici che hanno altre specialità e che quindi non sono abituati a trattare questo tipo di sintomatologia. Questo è fondamentale, ci vogliono proprio delle indicazioni da parte delle reti di cure palliative e in tutte le realtà regionali e locali per inserire nei percorsi di cura proprio questi malati affetti da questa patologia. Tra l'altro abbiamo sentito che questi malati sono molto presenti anche nelle residenze sanitarie assistenziali, nelle RSA, dove ci sono dei malati molto fragili, e anche lì purtroppo non ci sono delle competenze specifiche per poter trattare questa sintomatologia. Quindi è importante riuscire a prendere contatto con delle equipe che possono dare anche delle consulenze, che possono essere anche telefoniche, ma bisogna creare veramente una rete, un programma che possa dare supporto a chi ha in cura questi malati. Quindi questo è l'appello forte che le due società scientifiche, anche la Federazione Italiana di Cure Palliative, vuole dare. Inserire il palliativista proprio nelle unità di crisi, anche regionali e locali, perché in questo modo si può coordinare bene la rete e l'assistenza in tutti i setting dei malati da Covid. Io, dottor Penco, mi auguro, ritengo che sia necessario che il vostro appello sia accolto nel modo più veloce e concreto possibile, perché è estremamente importante, fondamentale non solo salvare le vite ma anche prendersi cura da un punto di vista psicologico e fisico di chi soffre, da un punto proprio relativamente al dolore, così come nelle altre malattie, nelle malattie croniche, nei tumori eccetera, anche in questo caso. Quindi è forse l'aspetto ancora più umano del prendersi cura dei malati. La ringrazio moltissimo e veramente mi auguro che l'appello vada a buon fine. Grazie dottor Italo Penco, grazie per il vostro lavoro e per il vostro appello. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Adesso ci fermiamo brevemente, come sempre, per una piccola pausa. Per i vostri messaggi 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti. Dovremo raggiungere tra poco l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte a casa, naturalmente, o le poche che hanno dei turni di lavoro particolari sono giustificati se fossero in macchina, comunque siete al posto giusto, nel momento giusto. Roberta Giordano, naturalmente, sempre con voi dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22. Dice un'ascoltatrice Vediamo se la ritrovo. Un'altra che appunto diceva a proposito dei medici, questo rischiare la propria vita per aiutare gli altri. E poi invece un altro ascoltatore, eccolo qua, dice: ma se si ammalano medici e infermieri, bardati come sono, che possibilità abbiamo noi con una semplice mascherina? Ma in realtà loro sono costantemente in contatto con pazienti malati, è una cosa diversa stare costantemente in quegli ambienti, ci mancherebbe, no? Che non fossero sempre super bardati. Poi Lidia dice: è vero che la Germania conta come morti da virus solo quelli che non hanno altre patologie, per questo ne hanno così pochi. Ancora non c'è una risposta definitiva, cara Lidia, nel senso che c'è chi dice che una popolazione meno anziana, oppure che hanno più terapie intensive, o anche che hanno cominciato subito a fare tamponi a tappeto, a isolare le persone malate, eccetera, eccetera. Ancora non si sa. Comunque adesso invece ci occupiamo della situazione in Lombardia. Abbiamo parlato della situazione nazionale. Lombardia, dove dall'inizio dell'epidemia di coronavirus le persone che hanno contratto il Covid-19 sono 47.520 e sono 8.311 i morti, tantissimi. Oggi sono 351 i decessi. Però l'assessore al welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ha detto che tuttavia i dati cominciano a essere confortanti. E allora eccolo qua in collegamento, l'assessore Giulio Gallera. Buonasera, grazie della disponibilità. Lei è sempre molto energico, energetico, per fortuna, tiene botta. Molto bene. Assessore Gallera, quindi lei dice, nonostante questi numeri ancora molto pesanti, la Lombardia appunto è la regione che più soffre, però cominciamo a vedere un pochino qualche spiraglio? Allora, sì, i dati ormai da qualche giorno ci danno un'indicazione di un miglioramento, no? Un leggero però costante miglioramento, anche la voce degli ospedali, insomma le pressioni sui pronto soccorso che comunque si è ridotta più o meno in maniera omogenea, qualche riduzione anche dei ricoveri complessivi, quindi c'è qualche risultato, c'è, ma è un dato che deve darci la dimensione che il sacrificio che stiamo facendo sta producendo dei risultati, ma per questo bisogna assolutamente continuare. Guardi, io sono, diciamo, molto, se vuole, preoccupato dall'idea che qualcuno possa rilassarsi dopo questa fatica compiuta e uscire, ricominciare quella vita sociale che ci ha portato poi a quello che abbiamo. Cioè c'è stato già un momento in cui, dopo una prima settimana, diciamo, di contenimento, di rigidità delle misure, si era un po' allentato e poi c'è stata un'ulteriore ondata che ci ha travolto. Assessore Gallera, ma lo sa, no, che insomma la gran parte delle persone naturalmente rispettano le regole, per fortuna, però si guarda sempre a un possibile orizzonte, non ovviamente di ritornare a fare la vita di prima, perché purtroppo sembra che la battaglia sia molto lunga e che quindi anche quando ci sarà la fase 2, la fase 3 annunciate nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio Conte, bisognerà comunque stare a distanza, le mascherine, comunque mantenere certe misure così di autoprotezione, di protezione del prossimo. Lei però intravede la possibilità, siccome tra l'altro l'ordinanza della Regione Lombardia rispetto alle misure restrittive è una delle più severe in Italia, pensa che piano piano verso maggio qualcosa in più si possa non ritornare appunto tutti insieme? Io penso che tra il mese di aprile è ancora un mese in cui dovremo in qualche modo continuare questa azione di rigidità del nella vita sociale, anche nella vita lavorativa e professionale, magari dire verso la fine se riusciremo a, stanno studiando un po' i nostri epidemiologi, qualche ragionamento, qualche valutazione di scenario, sicuramente insomma poi al più tardi dall'inizio del mese di aprile, se non qualche settimana prima, iniziare una lente graduale. Di maggio. Sì, cioè, sì. Quindi voglio dire, diciamo che sicuramente fino al 20 aprile queste misure vanno mantenute, poi vediamo di capire come ci si può muovere, come ha già anticipato lei, noi probabilmente dovremo abituarci a girare con la mascherina, dovremo adottare alcune misure che sono quelle di controllare la temperatura prima di entrare in tutta una serie di locali, dai supermercati ai negozi ad altro, di avere dei gel igienizzanti fuori da ogni locale da utilizzare in maniera costante, probabilmente l'idea dei ristoranti o altro dovranno essere ripensati in maniera molto ampia, cioè in modo che ci siano grandi spazi tra una persona e l'altra, quindi quantomeno questo, poi vediamo di capire il resto come si può sviluppare, ci stiamo ragionando, ecco, magari ricominciare con un'attività per esempio di e-commerce e quindi anche i piccoli negozi che però invece di avere le persone che vanno direttamente, una persona può fare un ordine e gli viene portata a casa, no? Quindi un modo per evitare gli affollamenti anche nei piccoli negozi, nelle attività. Insomma. Quindi state pensando un po' al dopo, assessore Galera. Senta, certo, invece per adesso vedevo che l'OMS, tra le molte dichiarazioni di oggi, indicazioni eccetera, ha detto che dopo il progetto Solidarity 1 per cercare farmaci e vaccini contro il Covid-19 si prepara adesso a lanciare nei prossimi giorni il programma Solidarity 2, cioè per sapere quante sono nel mondo le persone con l'infezione attraverso una poderosa campagna di analisi del sangue per rilevare gli anticorpi del virus e decidere non solo vedere la prevalenza, la mortalità del Covid anche nelle diverse fasce d'età, ma decidere la durata, appunto, la chiusura, la quarantena. E ho visto che anche qui in Lombardia da domani, se non sbaglio, parte sia per i tamponi, cioè che entro domani dovrebbero essere 31 laboratori per fare i tamponi, e poi l'analisi del sangue. Da quando, assessore Gallera, questa cosa? Allora, noi il tema dei test sierologici è un tema che stiamo approfondendo da un po' di giorni. Siamo l'unica regione che con i propri laboratori sta testando gli oltre 100 kit che sono attualmente in commercio, per verificare l'efficacia, la sensibilità e la specificità di ognuno di questi. La scienza ci dice che ci vuole tempo, ci vuole prudenza su tutto questo. Prima di tutto non è un test diagnostico nel senso proprio, cioè non è come il tampone che ci dice se abbiamo o non abbiamo il virus, quindi questo è importante, perché invece molti cittadini ormai stanno, parlano, chiedono, inveiscono come se il test sierologico fosse uno strumento che ci consente di dire se ci abbiamo, siccome è molto veloce, se abbiamo o non abbiamo il Covid. Quello del sangue. Lo strumento, esatto, quello del sangue, come dice l'OMS, è uno strumento che ad un certo punto ci saprà dire quante sono le persone immunizzate, no? Ma sicuramente stiamo cercando di verificare se è possibile, diciamo, in un tempo ragionevolmente ristretto dopo la conclusione dei sintomi, che questo test ci dica con certezza che tu non solo hai fatto il Covid e hai gli anticorpi, ma non infetti più gli altri. Quindi, assessore Gallera, quando partirete facendolo, lo farete soltanto a chi ha avuto dei sintomi chiari il Covid-19? Ah, magari lo faremo anche sugli asintomatici per avere un'indicazione, ma è un'indicazione che rispetto al fatto che tu cioè il negativo non è detto che non sia una persona col Covid, ecco, quindi questo è il tema, cioè i primi test fatti ci evidenziano che ci sono moltissimi falsi negativi. Perché? Perché l'anticorpo emerge in una persona dopo che c'è l'infezione, c'è la malattia, ed è il modo con cui il corpo reagisce alla malattia, no? Ma vuol dire che tu per un arco di tempo hai i sintomi, sei infetto, ma in quel momento non hai ancora sviluppato gli anticorpi. Comunque, rispetto alla polemica anche di alcune regioni che già stanno facendo i tamponi o gli esami sierologici eccetera, ci vuole ancora un po' di tempo per quanto riguarda la Lombardia. Speriamo sia poco, ma ci vuole il tempo necessario. Mi sembra che anche oggi le regioni che più si erano portate avanti hanno con prudenza detto che stanno aspettando gli esiti, voglio dire, delle ricerche scientifiche, devono averlo colto, esattamente, no? Io sono in questo momento ancora al lavoro in una riunione lunga con il Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti i governatori. Il Ministro Speranza è intervenuto dicendo che oggi c'è stato un incontro del G7 dei Ministri della Salute, si è molto discusso su questi test sierologici e si è, voglio dire, predicata grande prudenza rispetto a tutto questo, no? E noi ancora una volta nel nostro modo di fare, che insomma arriva da qualche giorno, siamo in linea o gli altri sono in linea, diciamo, con la nostra, come la vogliamo vedere, perché è assolutamente importante. Comunque ampliamo la capacità di fare i tamponi, che siamo iniziando a fare, che stiamo facendo anche a tutti gli operatori sanitari, ai medici in generale, alle persone che rientrano diciamo, al lavoro, sia, cioè. Esatto, sia per cui stiamo ampliando la base. Confidiamo il prima possibile di avere dei test sierologici attendibili per lo scopo nostro, per poterli fare chiaramente in misura molto più ampia e massiva. Chiaro. Assessore Gallera, quindi lei diceva che in riunione, tra poco la lascio, infatti sto vedendo che il Presidente del Consiglio Conte è dentro l'incontro con le regioni, però mi pare che le polemiche si siano un po' abbassate. Conte ha detto che il governo sta facendo tanto per le regioni, ognuno di noi, ministri, governatori, tutti a livelli istituzionali, sta dando il massimo. Quindi mi sembra che sia di nuovo ricucito un po' questo rapporto di collaborazione, Gallera. Guardi, noi non abbiamo mai voluto fare polemiche. Ci sono delle difficoltà e sono anche rilevanti, dopodiché siccome siamo tutti nella stessa barca e tutti dobbiamo provare a dare una risposta ad un'emergenza sanitaria che non ha pari nel mondo, noi ci siamo. È chiaro che quando poi abbiamo esponenti rilevanti politici che magari sono rappresentanti del territorio, mi riferisco ai sindaci dei comuni capoluogo, tutto che ben consapevoli delle fatiche, delle difficoltà, dei punti di debolezza nazionali e altro, vogliono invece, voglio dire, attribuire responsabilità non nostra alla regione, capisce che allora a noi spiace perché qualcuno perde uno status istituzionale per scendere in una polemica politica bieca, però insomma noi abbiamo dovuto un po' reagire, dopodiché noi non l'abbiamo mai voluto fare per primi, siamo impegnati e andiamo avanti a lavorare con unità, con il governo con cui abbiamo una collaborazione solida e andiamo e continuiamo a lavorare. Assessore Gallera, adesso la lascio andare che appunto è molto preso, però mi dica una cosa, sì. Siccome alcuni aspetti delle ordinanze della Lombardia rispetto al decreto governativo non sono sempre chiare, la corsetta sotto casa o no, il genitore con un bambino sì o no, ecco, le va di chiarire due o tre cose proprio in sintesi, sintesi, la lascio andare. Siamo a casa, mi sembra più sintetico di così, non si può, bisogna stare a casa, guardi, cioè poi chi deve uscire per una necessità, non c'era bisogno che il ministro dell'interno lo dicesse, è scontato ed evidente, è scritto in tutte le circolari, che se hai un bambino di sei mesi o di un anno, di due anni e sei solo in casa lo devi portare in farmacia con te, no, ma questo non c'era bisogno, non lo si può lasciare, ma il problema è il messaggio istituzionale, cioè, lei l'ha già detto, la gente o mi sembra qualcuno che c'è già più gente in giro, no, adesso, perché oggettivamente fa più caldo, la gente è stanca e così, no? Se noi non diamo un messaggio univoco come istituzioni, non ci vuole niente a che il cittadino capisca che ormai è tutto lontano, è tutto finito. Chiarissimo, non è per niente vita. Tutto lontano, lo sappiamo. Esatto, bene. Esatto. Grazie ancora e buon lavoro, Assessore Gallera. Grazie. C'è la viabilità, sì. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Oh, si diceva con l'assessore al welfare della regione Lombardia Gallera, in chiusura insomma, che bisogna stare a casa e questo continua a essere la regola principe, che però negli ultimi giorni ci sono state effettivamente, sembra di vedere più gente in giro, almeno quando vengo al lavoro mi sembra di vedere più macchine, più persone, non so se tutti stanno andando al lavoro, comunque sono aumentati i controlli e anche le sanzioni, le multe, sapete che adesso col nuovo decreto fino a 3.000 euro di multa per chi viola i regolamenti. Allora ne parliamo con la nostra Raffaella Calandra, ciao Raffaella. Ciao Roberta, eccoci. Perché naturalmente i controlli adesso si intensificheranno, in particolare avvicinandoci alla Pasqua, no? Però negli ultimi giorni c'è stato un boom di sanzioni per persone che sono uscite senza un vero motivo. Beh, decisamente sì, perché in una settimana, in una giornata 7.600 persone sono state appunto multate perché erano in giro senza validi motivi, in una settimana sono state 43.000 le persone trovate fuori casa senza ragione e quel che è peggio, in 354 erano anche positivi al virus e ora rischiano fino a 4 anni di carcere perché ovviamente verranno accusati di epidemia colposa. Quindi è vero che c'è molta più gente in giro, forse i primi segnali di rallentamento dell'epidemia hanno in qualche modo fatto calare un po' la tensione, le città non appaiono più deserte come era all'inizio dell'emergenza, e questo è un grave rischio, perché invece proprio in questo momento bisogna tenere, diciamo, le misure, perché altrimenti il rischio è forte che ricominci l'epidemia. Arrivano anche immagini, perché in alcune città come ad esempio Napoli vengono utilizzati anche i droni per controllare gli assembramenti in alcuni quartieri, ed effettivamente in alcuni rioni popolari si notano ancora delle piccole folle nei mercati, qualcuno casomai ha la mascherina, ma di sicuro non vengono garantite quelle distanze che sono obbligatorie e che sono necessarie. A proposito di Napoli, sono dati, Raffaella, di particolare... tra l'altro la processione delle reliquie di San Gennaro, che sarebbe in programma a Napoli per sabato 2 maggio, probabilmente, immagina, dovrebbe essere, giusto, secondo la situazione di particolare emergenza che stiamo vivendo, sospesa? Allora, di sicuro, allora, al momento tutte le restrizioni valgono fino al 13 aprile, però è anche vero che proprio considerando il fatto che questi rischi di spostamenti adesso faranno intensificare i controlli su Pasqua, l'ipotesi e la valutazione che più, diciamo, si sta battendo in questi giorni è di prorogare le restrizioni così severe almeno anche dopo il ponte del 25 aprile e del 1 maggio, perché il rischio di avere troppa folla subito in giro è ovviamente altissimo. Quindi, facendo una diciamo un parallelo rispetto a quelle che potrebbero essere le indicazioni superiori, è altamente probabile che anche delle situazioni religiose in cui ci sono tradizionalmente tantissime persone vengano rinviate, così come diciamo adesso tutte le celebrazioni della Settimana Santa che comincia sono state alcune avverranno esclusivamente in via telematica. Lo stesso Papa non sarà al Colosseo ma in una piazza San Pietro di nuovo vuota, e altre cerimonie invece sono state rinviate a settembre. Quindi è probabile che anche in questo caso, anzi questa mi sembrerebbe, diciamo, anche proprio buon senso, vengano rinviate a quando speriamo che l'epidemia sia soltanto un brutto ricordo. Un brutto ricordo. Tra l'altro vedo che anche la grande concertone, manifestazione del 1 maggio, insomma, stanno dicendo i sindacati che dovrebbero essere sospese, rimandate, anzi annullate, diciamo, per quest'anno, perché sono proprio poi quelle manifestazioni, come appunto la processione di San Gennaro e queste, che radunano tantissime persone. Non è proprio il momento, anche se si dovesse allentare leggermente, certamente le misure di distanziamento, le mascherine eccetera, sono tutte purtroppo provvedimenti che bisogna mantenere. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta. Ciao cara Raffaella. E un'ascoltatrice scrive: sono allibita nell'apprendere che le cure palliative, ne parlavamo prima con un anestesista, non sono nei protocolli di questa emergenza sanitaria, dice Fiorenza. Le avrei dato per scontato, e lo so, probabilmente, come diceva lo stesso medico, probabilmente è il momento di grande crisi, di emergenza, di corsa in tutte le direzioni, che però questo appello è stato forte, speriamo appunto che venga accolto il prima possibile. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore. Serenata, yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. All right. Per te da questa sera. Oh, e naturalmente dobbiamo chiedere adesso al nostro Paolo Corazzone di Trebi Meteo che tempo ci sarà fuori dalla finestra, visto che fuori dalla finestra lo dobbiamo vedere, forse è lì ancora che sta guardando in dettaglio le previsioni, e quindi ci prendiamo ancora un pochino di tempo mentre continuo a vedere tanti vostri messaggi che stanno arrivando. Per esempio dice questo messaggio di Bruno Darò, che dice: Roberta, presunta potenza taumaturgica dello state a casa si sta rivelando del tutto inconsistente, danneggiando psicologicamente i cittadini. Lo so, ma immaginate, avete sentito quanti morti ci sono stati finora, le bare portate via di notte a decine e decine. Ma se questa è una cosa che andava fatta diversamente, se avete migliori idee. Dunque, Paolo Corazzon, stavi ancora scrutando la tua sfera di cristallo, che tempo avremo da vedere fuori dalla finestra questo fine settimana? Beh guarda, buonasera Roberta, buonasera a tutti, arriva la prima primavera, arriva la primavera, quella vera, nei prossimi giorni, vabbè, insomma, apriremo le finestre, ce la godremo su terrazzi e balconi, però a mio parere, insomma, questo sole in qualche modo riempirà un po' i nostri cuori, dai, vediamola così. Fatto sta che davvero avremo giornate primaverili, il weekend anche tutta la prossima settimana, fino ad arrivare a Pasqua compresa, con temperature via via in aumento, quindi anche il clima si fa più primaverile e vabbè, insomma, ce ne godiamo stando in casa, però ripeto, dai, meglio il sole che la pioggia, a mio parere, in un periodo così difficile. Sei dai. Sempre quello del mezzo bicchiere pieno, l'altra volta pioveva e quindi questo ci induceva a stare a casa più volentieri, ora invece Però adesso meglio... abbiamo un po' tutte le palle piene, diciamo, l'hai detto. Il sole in qualche modo ci dà un po' di forza. Ma dai. Sì, sicuramente ci illumina, grazie al nostro Paolo Corazzo di Trebiveto. Ciao caro Paolo, buon tempo a te comunque sia. Buon tempo a tutti, ciao. Ciao Paolo. Ci sentiamo alle 22.